Capitolo 12. Il maggior ostacolo che mi si presentò quando accettai l'onore di scrivere questa biografia fu la difficoltà di mostrare quanto realmente nobile, tenera e sincera sia stata Charlotte Bronte, senza intrecciare al racconto della sua vita troppa parte della storia personale di quanti le furono più intimi e vicini. Dopo aver considerato a lungo il problema, decisi che sarei rimasta sempre fedele alla verità, anche se di alcune circostanze, per la loro stessa natura, non mi era possibile narrare diffusamente come di altre. Uno dei punti di maggiore interesse è, naturalmente, il matrimonio e gli avvenimenti che lo hanno preceduto, ma più di qualsiasi altro evento, perché di data più recente e perché riguarda un'altra persona tanto intimamente quanto Charlotte stessa, questo fatto richiede un trattamento speciale, delicato da parte mia, per evitare intrusioni intempestive in quanto vi è di più sacro alla memoria. Tuttavia ho due motivi buoni e validi per dare alcuni particolari sul corso degli avvenimenti che condussero a quei pochi mesi di vita coniugale, quel troppo breve periodo di intensa felicità. Il primo è il desiderio di sottolineare che Mr. Nichols l'aveva vista quasi quotidianamente per molti anni nel suo ruolo di figlia, di sorella, di padrona di casa e di amica. Non era uomo da essere attratto dalla fama letteraria. Immagino che questo fatto era piuttosto tale da respingerlo in una donna. Era un uomo grave, riservato, coscienzioso, con un profondo senso della religione e dei doveri che gli incombevano come uno dei suoi ministri. L'aveva osservata e amata lungamente in silenzio. L'amore di un tale uomo, spettatore quotidiano per lunghi anni del suo modo di vivere, è valida testimonianza a favore del suo carattere femminile. Quanto profondo sia stato il suo affetto, non oso, anche se potessi, mettere in parole. Ella non sapeva niente, non aveva ancora incominciato a rendersi conto di essere oggetto di una speciale considerazione, quando in quello stesso dicembre egli giunse una sera all'ora del tè. Dopo il tè, Charlotte ritornò dallo studio nel soggiorno, come era solita fare, lasciando insieme il padre e il suo curato. Da lì a poco udì aprire l'uscio dello studio, aspettandosi il successivo sbattere della porta d'ingresso. Invece udì bussare e, come un lampo, le balenò la certezza di quanto stava per accadere. Lui entrò, scrive Charlotte, rimase ritto di fronte a me. Puoi immaginare quali furono le sue parole, del modo con cui le disse è difficile dire, né io lo posso dimenticare. Mi resi conto per la prima volta quanto costi a un uomo dichiarare il suo sentimento quando non è sicuro della risposta. Lo spettacolo di un uomo solitamente così controllato, che ora tremava, emozionato e sopraffatto, mi fece uno strano effetto. Fui solamente capace di supplicarlo di lasciarmi per il momento, promettendogli una risposta per l'indomani mattina. Gli chiesi se aveva parlato a papà, disse che non aveva osato. Penso che lo aiutai a lasciare la stanza, metà guidandolo e metà spingendolo fuori. Quanto profondo, quanto fervente, quanto duraturo fu l'affetto ispirato da Miss Bronte a quest'uomo. È cosa che l'onora e ho pensato fosse mio dovere dirne quanto ne ho detto e citare il brano di lettera che ho trascritto. E ora passo al secondo motivo per insistere su un argomento che a prima vista potrebbe essere considerato da certuni in una natura troppo privata per essere pubblicato. Appena Mr. Nichols l'ebbe lasciata, Charlotte andò da suo padre e gli riferì ogni cosa. Egli aveva sempre disapprovato il matrimonio e ne parlava costantemente con ostilità. Anche questa volta non solo disapprovò, ma lasciò capire che il pensiero dell'attaccamento di Mr. Nichols per sua figlia gli era insopportabile. Temendo le conseguenze di un'intensa agitazione per uno che era stato recentemente ammalato, ella si affrettò a promettere al padre che la mattina seguente avrebbe opposto un categorico rifiuto a Mr. Nichols. Colei sulla quale erano stati formulati duri giudizi da recensori ignoranti, ricevette quietamente e modestamente quella veemente, appassionata dichiarazione d'amore e, pensando al padre, scartò ogni considerazione personale per conformarsi al desiderio di lui. L'invio delle dimissioni di Mr. Nichols fu l'immediata conseguenza della ripulsa. Miss Bronte in apparenza non reagì, pur soffrendo acerbamente per le espressioni usate dal padre nei confronti di Mr. Nichols e per l'evidente dolore e pena di quest'ultimo. Date le circostanze, Si avvalse con piacere ancora più schietto del solito dell'invito di Mrs. Smith e fu sua ospite a Londra durante le prime settimane del gennaio 1853. Fu allora che ricevetti la lettera seguente e con orgoglioso piacere che ora ricopio le sue parole di amicizia. 12 gennaio 1853. Toccherebbe a lei scrivere. Non ho avuto risposta alla mia ultima lettera, ma penso di sapere la ragione del suo silenzio, cioè applicazione al lavoro, e perciò lo accetto, non solo con rassegnazione, ma addirittura con piacere. Mi trovo a Londra, come la data qui sopra indica, tranquillissima ospite del mio editore, intenta a correggere le bozze e via dicendo. Prima di ricevere le sue righe provavo riluttanza e l'avevo manifestata a Mr. Smith a tagliare la strada a Ruth, non che io pensi che possa soffrire per la vicinanza di Villette. Niente ci dice che non sia quest'ultimo a soffrire del confronto, ma ho sempre considerato i paragoni odiosi e vorrei che né io né i miei amici vi fossimo assoggettati. Mr. Smith perciò ha proposto di differire la pubblicazione del mio libro al 24 corrente. Dice che ciò basterà a dare la precedenza a Ruth sui quotidiani e sui settimanali e le lascerà libero tutto febbraio sulle riviste mensili. Se il ritardo al 24 non le sembra sufficiente, me lo dica e verrà prolungato. Credo però che, per quanto si faccia, sarà impossibile evitare completamente i confronti. Fa parte dell'indole di alcuni critici l'essere sgradevoli, ma noi non dobbiamo darvi peso, li possiamo sfidare. Non faranno di noi due nemiche, non insinueranno nei nostri reciproci sentimenti un'ombra di gelosia. Le porgo la mano come pegno e so che risponderà alla mia stretta con la sua. Villette non ha alcun diritto di porsi avanti a Ruth. In quest'ultimo vi è una bontà, un'intenzione filantropica, un utile sociale che il primo non può in alcun modo vantare, né può rivendicare il diritto alla precedenza in base alla superiorità letteraria. Io lo considero assai meno di Jane Eyre. Vorrei tanto incontrare, probabilmente tanto quanto lo vuole anche lei, e perciò considererò il suo invito per marzo come un impegno. Spero di farle una breve visita verso la fine di quel mese, coi più cordiali saluti per Mr. Gaskell e per tutta la sua cerchia preziosa. Sono, eccetera, eccetera. Questo soggiorno da Mr. Smith trascorse più quietamente di qualsiasi altro e fu naturalmente più consono ai gusti di Charlotte. Vide più cose che persone e, essendo stata lasciata libera di scegliere quello che voleva vedere, scelse di entrare in contatto col lato reale della vita, piuttosto che con quello decorativo. Visitò due prigioni, una antica e l'altra moderna, Newgate e Pentonville, due ospedali, il Foundling e il Bethlehem, e a sua richiesta fu anche accompagnata a vedere parecchi edifici della vecchia City, le banche, la borsa, la banca Rothschild, eccetera. Il potere di una vasta e pur minuziosa organizzazione sempre suscitava in lei rispetto e ammirazione. L'apprezzava più di quanto la maggior parte delle donne sia capace di fare. Tutto quanto vide in questa sua ultima visita a Londra la impressionò profondamente, tanto da renderla incapace di esprimere immediatamente le sue sensazioni e di ragionare sulle sue impressioni, mentre erano così vivide. Se fosse vissuta più a lungo, prima o poi le avrebbe messe a frutto. Quanto vide, prese dimora nel suo pensiero e pesò nel suo spirito. Fu trattata con estrema gentilezza dai suoi ospiti e dimostrò loro l'antica, calda e grata considerazione. Ma guardando a ritroso, con la scienza di quanto allora il futuro teneva in serbo e che ora il tempo ci ha dato, non si può non pensare che allora vi fu una sfumatura di tristezza nell'addio agli amici che vide per l'ultima volta un mercoledì mattina di febbraio. Sulla via del ritorno incontrò l'amica E a Keighley e tutte e due proseguirono per Haworth. Villette, che anche se meno interessante di Jane Eyre come intreccio, mostra maggiormente lo straordinario genio dell'autrice, fu accolto con incondizionato successo. Eppure, questo meraviglioso racconto si svolge in un luogo tanto monotono quanto può essere un pensionato per giovinette. Ecco come riceve le buone notizie sul suo successo. 15 febbraio 1853. Ho ricevuto un complesso di non meno di 7 giornali tra ieri e oggi. L'insieme di tutte le recensioni è tale da gonfiarmi il cuore di riconoscenza per colui che tiene conto delle sofferenze, della fatica e delle intenzioni altrui. Anche papà è compiaciuto. In quanto agli amici credo di poter continuare a volere loro bene senza aspettarmi che prendano gran parte a questo genere di soddisfazione. Quanto più a lungo vivo, tanto più chiaramente vedo che lieve deve essere la tensione sulla fragile natura umana. Essa non sopporta granché. Suppongo che il tono di lieve disappunto che si percepisce nelle ultime righe sia dovuto alla sua grande suscettibilità rispetto a un'opinione alla quale attribuiva grande valore, quella di Miss Harriet Martineau, la quale, sia in un articolo su Villette apparso sul Daily News, sia in una lettera personale a Miss Bronte, l'aveva ferita sul vivo, esprimendo critiche negative che a lei erano sembrate ingiuste e infondate, ma che avevano inciso molto più a fondo di qualsiasi giudizio sul valore artistico dell'opera. Uno scrittore può arrivare a convincersi di saper sopportare la critica con equanimità da qualsiasi fonte provenga, ma l'impatto deriva dalla natura di questa fonte. Per il pubblico un recensore vale l'altro, ma uno scrittore spesso annette significati assai più profondi alle critiche. C'è il verdetto di coloro che gli rispetta e ammira, oppure le parole di alcuni ai quali non concede alcuna importanza. È la coscienza del valore del recensore che fa penetrare profondamente le critiche nel cuore di chi ne è l'oggetto. Fu la sincera, salda considerazione che Charlotte nutriva per Miss Martineau, che la fece soffrire tanto per quelli che considerò malintesi sia sulla sua opera che sul suo carattere. Molto tempo prima avevo chiesto a Miss Martineau di dirle se le sembrava che Jane Eyre tradisse una qualche delicatezza o decenza femminile, e nel riceverne un'assicurazione negativa, Miss Bronte l'aveva supplicata di non tacere, ma di parlare francamente ogni volta notasse nell'opera di Currer Bell una simile mancanza. Quando fu pubblicato Villette, Miss Martineau mantenne la promessa. Miss Bronte si risentì dolorosamente del giudizio che le sembrò ingiusto. A questo punto conviene far notare che Miss Bronte era totalmente inconsapevole di quanto era considerato da alcuni volgare nei suoi scritti. Un giorno, durante la visita alla Briery, dove feci la sua conoscenza, la conversazione cadde sulle donne scrittrici e qualcuno fece osservare che in certi casi le scrittrici avevano di gran lunga oltrepassato i limiti che gli uomini si imponevano in opere di narrativa. Miss Bronte disse che si chiedeva fino a che punto ciò fosse una naturale conseguenza del permettere all'immaginazione di lavorare con troppa intensità. Sir James e Lady Kay Shuttleworth e io esprimemmo il parere che le infrazioni alla decenza fossero assolutamente inconsapevoli da parte di quelle che le commettevano. Ricordo la gravità, l'ardore con cui lei disse: «Spero che Dio mi tolga qualsiasi capacità di invenzione e di espressione, piuttosto che rendermi incapace di giudicare ciò che è decente o è indecente dire». Si sentiva invariabilmente urtata e smarrita quando udiva criticare negativamente Jane Eyre in merito. Qualcuno le disse a Londra: «Sa, Miss Bronte, lei e io abbiamo scritto libri un po' spinti». Rimuginò molto su queste parole, tanto che chiese a Mrs. Smith come lo avrebbe chiesto a sua madre, se non fosse rimasta orfana in tenerissima età, se realmente vi fosse qualcosa di tanto sbagliato in Jane Eyre. Da parte mia non nego che qua e là si incontri qualcosa di grezzo nei suoi lavori così nobili nel loro insieme. Chiedo solamente a chi li legge di prendere in considerazione la vita da lei condotta, che è stata qui messa a nudo, e poi dire come avrebbe potuto essere diversamente. Vedeva pochi uomini, fra questi uno o due le erano conosciuti fin dalla prima gioventù e le avevano dimostrato molta amicizia e gentilezza. Dalle loro famiglie aveva ricevuto molti piaceri, nutriva grande rispetto per la loro intelligenza. Davanti a lei, se non con lei, parlavano con tanta poca reticenza quanto Rochester parlava a Jane Eyre. Aggiungete a questo la triste vicenda del suo povero fratello e la gente dal parlar chiaro in mezzo alla quale viveva. Rammentate quanto fortemente sentiva il dovere di rappresentare la vita non come dovrebbe essere, ma quale è realmente. E rendetele giustizia per tutto quanto fu e per tutto quello che sarebbe stata se Dio l'avesse lasciata tra noi. Invece di censurarla perché le circostanze la costrinsero a toccare il fondo e se in conseguenza di ciò la sua mano fu per un istante contaminata, non lo fu che transitoriamente. Ogni cambiamento nella sua vita la purificava, non dico la elevava, perché ciò sarebbe stato impossibile. Ancora una volta mi dico, se fosse vissuta più a lungo. Il malinteso con Miss Martineau dovuto a Villette cagionò un amaro dispiacere a Miss Bronte. La critica di Harriet Martineau riguardava l'eccessiva importanza data, secondo lei, all'elemento della passione amorosa nel romanzo e nella vita di Lucy Snow. La Martineau auspicava per le donne una maggiore varietà di interessi e riscontrava questo fatto nella vita delle sue contemporanee. Donne di ogni età, scriveva Harriet Martineau, che era femminista e suffragista, hanno interessi sostanziali e profondi per molte altre cose che non l'amore. Così scriveva Miss Martineau in una lettera indirizzata a Miss Gaskell. A quanto pensava, sua natura femminile era stata fraintesa in modo offensivo da una persona che amava. Fu nello stesso gennaio che, scrivendo a un'amica, della cui lettera possiamo intuire il tenore, disse quanto segue. «Ho letto attentamente tutto quanto mi dice a proposito di Miss Martineau. La sincerità e la costanza della sua sollecitudine mi commuovono veramente. Mi rincrescerebbe trascurare o rifiutare il suo consiglio, eppure sento che non sarebbe giusto mettere senz'altro da parte Miss Martineau. Nella sua indole vi è molto di nobile. L'hanno ripudiata in molti di più, temo, nell'apprensione che i loro nomi potessero soffrire se visti accanto al suo, che per la sincera convinzione, come lei crede, di un possibile danno conseguente ai suoi funesti principi. Non posso sopportare di unirmi a costoro, e in quanto al suo peccato non è questo tale da dover essere giudicato da Dio, non dagli uomini? Per dirle la verità, cara Miss, credo che se fosse al mio posto e conoscesse Miss Martineau come me, se condividesse con me le prove della sua genuina gentilezza d'animo e avesse visto come soffre segretamente per l'abbandono, sarebbe l'ultima ad abbandonarla. Separerebbe la peccatrice dal peccato e si renderebbe conto che è giusto restare quietamente dalla sua parte in questa strettura, quando il farlo non è alla moda, anzi impopolare. Penso che ella sia una di quelle persone la cui ostinazione nell'errore viene rafforzata dall'ostilità, mentre la pazienza e la tolleranza la toccano profondamente, la indurrebbero a chiedersi spontaneamente se la via finora seguita non sia per caso sbagliata. Gentili e affettuose parole di cui Miss Martineau non seppe mai nulla, ma che furono ripagate con parole più grandi e tenere dopo che Charlotte giacque nella tomba a fianco delle sorelle. A dispetto del loro breve malinteso, furono due nobili e fedeli amiche. Mi volgo a un argomento più piacevole. Mentre soggiornava a Londra, Miss Bronte aveva visto il ritratto di Mr. Thackeray dipinto da Lawrence e lo aveva grandemente ammirato. Le sue prime parole, dopo che si fu trattenuta alquanto a contemplarlo silenziosamente, erano state: «È un leone sorse dalla tribù di Giuda». Il ritratto fu poi riprodotto in incisione e Mr. Smith gliene inviò una copia. A G. Smith, Haworth, 26 febbraio 1853. Caro signore, a tarda ora ieri sera ho avuto l'onore di ricevere a Haworth un distinto ospite, niente di meno che Mr. Thackeray. Memore dei riti dell'ospitalità, l'ho appeso in gran pompa stamane, fa una splendida figura nella sua bella cornice dorata di ottimo gusto. Ha come compagno il duca di Wellington. Ricorda di avermi dato quella stampa? E come contrasto il ritratto di una immeritevole persona che in simile compagnia deve rimanere anonima. Thackeray distoglie lo sguardo da quest'ultima con sommo disprezzo, edificante per chi guarda. Mi chiedo se il donatore di questi ritratti li vedrà mai sulla parete dove ora sono appesi. Mi piace pensare che forse un giorno lo farà. Mio padre è rimasto in piedi per un quarto d'ora questa mattina a contemplare il ritratto del grand'uomo. La conclusione di quell'esame è stata che lo trovava enigmatico. Se non avesse saputo nulla sul carattere dell'originale, non avrebbe potuto leggerlo nei suoi tratti. Alcune pieghe ai lati delle guance e del naso rivelano l'uomo ironico e cinico. La bocca indica una semplicità infantile, forse persino un certo grado di irresponsabilità, di inconsistenza. A farla breve, di debolezza, ma una debolezza non sgradevole. La stampa mi sembra ottima. Una certa espressione non del tutto cristiana, un'espressione di dispetto vivissimamente segnata nell'originale, qui è attenuata e forse un poco, pochissimo della forza è andata perduta in questa miglioria. Lo ha notato anche lei? Durante quell'inverno del 1852-53, Miss Bronte godé di una salute assai migliore di quella dell'anno precedente. «Per parte mia, mi scrive in febbraio, finora ho sopportato bene il freddo. Ho fatto lunghe passeggiate sulla neve scricchiolante e ho trovato l'aria gelida stimolante. Quest'inverno non è stato per me simile a quello scorso. L'inverno 51-52 è passato come una lunga notte tempestosa su di me, preda di un doloroso sogno, con strazio sofferto in solitudine e malattia. I mesi corrispondenti del 52-53 mi sono scivolati sul capo quietamente e non senza portarmi una certa letizia. Rendo grazie alla provvidenza per questo mutamento e riposo. Quanto mi siano giunti benvenuti, lui solo lo sa. Anche mio padre ha sopportato bene la stagione inclemente e il mio libro e il modo in cui è stato accolto gli hanno fatto piacere, lo hanno rallegrato. In marzo, la quieta canonica ebbe l'onore di ricevere la visita dell'allora vescovo di Ripon. Pernottò una notte da Mr. Bronte. Nella serata alcuni membri del vicino clero furono invitati a incontrarlo all'ora del tè e poi si trattennero a cena, durante la quale alcuni dei curati incominciarono a rimproverare allegramente Miss Bronte per averli messi in un libro. E lei, che non desiderava fosse sottolineata la sua qualità di scrittrice alla sua tavola e per di più in presenza di un estraneo, fece giocosamente appello al vescovo chiedendogli se era giusto metterla con le spalle al muro a quel modo. Sua signoria, mi è stato detto, fu piacevolmente impressionato dai modi tranquilli e modesti della sua ospite e dal decoro e dalla solidità di ogni cosa nella sua modesta dimora. E questo è tutto circa le impressioni del vescovo. Ora ci occuperemo di quelle dell'interessata. 4 marzo. Il vescovo è venuto e se n'è andato. È certamente il più incantevole dei vescovi, l'uomo più benevole e signorile che abbia mai indossato maniche di bianco lino. Ma è anche imponente, forte di fronte a ogni prevaricazione. La sua visita si è svolta nel migliore dei modi e nel congedarsi si è dichiarato totalmente soddisfatto. Nel corso della settimana è venuto anche l'ispettore e così ho avuto un bel da fare. Ah, se tu avessi potuto venire a Haworth per partecipare ai piaceri della compagnia senza essere incomodata dal trambusto dei preparativi, sarei stata felicissima di averti. Ma il ritmo della vita domestica è stato messo sottosopra più di quanto tu possa immaginare. Tuttavia, tutto si è svolto ordinatamente, quietamente e bene. Marta ha servito a tavola impeccabilmente e le avevo preso un aiuto in cucina. Papà è stato all'altezza della situazione come mi aspettavo, anche se dubito che sarebbe stato in grado di sopportarla un giorno di più. Io ho pagato il tutto con un forte mal di capo subito dopo la partenza del vescovo. Quanto ringraziai il cielo di avermelo evitato fino a quel momento. Oggi continuo a sentirmi intontita, naturalmente, e la reazione conseguente a parecchi giorni di attività ed eccitazione extra. Va benissimo parlare di ricevere un vescovo con semplicità, ma bisogna prepararsi a farlo. Uscirono alcune recensioni negative a Villette. Miss Bronte fece la solita richiesta al suo editore. A W.S. William. Caro signore, se dovesse venir pubblicata una qualsiasi recensione improntata a malanimo, la prego di non tenermela nascosta. Mi piace vedere le critiche positive, mi piace specialmente portarle a mio padre, ma debbo leggere anche quelle contrarie o ostili. Queste ultime servono alla mia speciale edificazione, è in esse che rilevo meglio le impressioni e le opinioni del pubblico. Schivare l'analisi di quanto è pericoloso e sgradevole a me sembra pura codardia. Desidero invariabilmente conoscere la verità e quando ne vengo tenuta all'oscuro mi dispiaccio. Per quel che riguarda il personaggio di Lucy Snow, ho avuto fin dall'inizio l'intenzione di non metterla sul piedestallo dove alcuni poco giudiziosi ammiratori hanno innalzato Jane Eyre. Ella si trova dove ho inteso metterla e dove nessuna accusa di autoincensamento può esserle mossa. Il biglietto di Lady Harriet Sinclair che lei mi ha fatto recapitare questa mattina ha esattamente lo stesso tenore di quello di Miss Mallock. Chiedono un'esatta e veritiera risposta circa il destino di Paul Emanuel. Vede quanta importanza le signore danno a questo metto che a nessuno di voi piace? L'altro giorno ho ricevuto una lettera che mi annunciava come una nobile signorina che aveva sempre dichiarato che se si fosse sposata suo marito avrebbe dovuto essere l'esatto duplicato del Mr. Knightley di Emma di Miss Austen, ha ora cambiato parere e ha fatto voto che o incontrerà l'esatto duplicato del professor Emanuel o rimarrà nubile. Ho mandato a Lady Harriet una risposta che lascia la cosa su per giù al punto in cui si trova nel libro. Visto che il piccolo enigma diverte le signore, sarebbe un peccato rovinar loro il piacere rivelandone la chiave. Quando la Pasqua, con le conseguenze che ne derivano, i sermoni fatti da predicatori che poi dovevano essere intrattenuti alla canonica, i raduni dell'Istituto dei Meccanici, i tè presi a scuola e poi contraccambiati, fu passata, alla fine di aprile Charlotte venne da noi a Manchester. Una nostra giovane amica era ospite da noi in quei giorni. Miss Bronte si era aspettata di trovarci soli e benché la nostra amica fosse gentile e sensibile, proprio secondo i gusti di Miss Bronte, quella presenza fu sufficiente per causarle un tremito nervoso. Mi ero accorta che le nostre due ospiti rimanevano insolitamente silenziose e avevo notato il leggero tremito che di quando in quando faceva rabbrividire Miss Bronte. Ero sicura del riservo della nostra giovane amica, ma il giorno seguente Miss Bronte mi disse quanto la vista in attesa di una persona estranea l'aveva turbata. Non erano passati più di 2 o 3 anni da quando avevo notato un effetto simile in lei, prima di una tranquilla serata da trascorrere a Fox Howe. Da allora aveva incontrato molte persone a Londra, ma l'effetto della sua timidezza era ancora il medesimo e il giorno seguente fu tormentata da una severa cefalea. Ebbi svariate occasioni di vedere come questo nervosismo facesse costituzionalmente parte della sua indole e quanto si desse la pena di vincerlo. Una sera, insieme ad altri ospiti, ricevemmo 2 sorelle che cantarono con grazia squisita alcune ballate scozzesi. Miss Bronte era rimasta a sedere quieta e ferma finché esse non incominciarono The Bonny House of Airlie. L'effetto di questa canzone della Carlyle Yeats che seguì fu tanto efficace quanto il proverbiale pifferaio di Hamelin. Una bella luce chiara le si accese negli occhi, le labbra le tremarono per la commozione, dimentica di sé si rizzò, attraversò la stanza fino al pianoforte e prese a chiedere con ardore una canzone dopo l'altra. Le sorelle le dissero di andarle a trovare la mattina seguente, che le avrebbero cantato tutto quel che voleva e lei promise lietamente e con riconoscenza. Ma il giorno seguente, nel giungere alla loro casa, il coraggio le venne meno. Percorremmo parecchie volte la via avanti e indietro. Lei si rimproverava continuamente per la propria stoltezza, mentre cercava di concentrarsi sulla dolce eco della memoria, piuttosto che sul pensiero di una terza sorella che avrebbe dovuto affrontare se fossimo entrate. Ma fu tutto inutile. Temendo che questa lotta con se stessa dovesse risultare in una delle sue spossanti cefalee, finii con l'entrare da sola e porsi quanto meglio potei le mie scuse per la sua assenza. Ascrivo gran parte di questo timore nervoso al pensiero di incontrare degli estranei, alla coscienza della propria mancanza di fascino, che le era stata fortemente impressa nella mente fin da bambina e che lei esagerava notevolmente. Ho notato, mi disse, che quando qualcuno mette gli occhi una volta sul mio viso ha cura di impedire al suo sguardo di girarsi verso il luogo dove sto io una seconda volta. Un'idea più lontana della verità non entrò mai in mente ad alcuno. 2 signori che la videro durante questa visita, senza sapere allora chi fosse, furono singolarmente attratti dal suo aspetto. Questa attrazione, suscitata dall'apparenza piacevole, dalla dolce voce, dai modi timidi e gentili, fu così forte in uno di loro da vincere l'antipatia provata fino a quel momento per i suoi scritti. Un altro segreto attinente a quella psiche così finemente accordata mi fu rivelato in quel tempo. Una sera mi accingevo a narrare un fosco racconto di spettri mentre era vicina l'ora di andare a letto. Ella si ritrasse e ammise di essere superstiziosa e vittima di un'involontaria tendenza a ritornare su qualsiasi visione di malaugurio le fosse stata suggerita. Raccontò che arrivando da noi aveva trovato sul suo tavolino la lettera di un'amica dallo Yorkshire che le riferiva una storia che le si era indelebilmente impressa nella mente e si intrecciava ai suoi sogni notturni e le impediva un sonno tranquillo e riposante. Un giorno invitammo a pranzo 2 signori per presentarglieli, aspettandoci che trovassero piacere nell'incontrarsi. Con nostro disappunto si chiuse in un timido riserbo, rispondendo a tutte le domande, a tutte le osservazioni molto laconicamente, finché, disperando di attirarla nella conversazione, vi rinunciarono e si misero a discutere con mio marito fatti di locale interesse. Tra le altre cose si parlò delle conferenze che Thackeray aveva recentemente tenuto a Manchester, e in modo speciale di quella su Fielding. Uno degli ospiti la criticò aspramente, accusandola di essere moralmente dannosa ed espresse rincrescimento che, avendo una grande influenza sul pensiero contemporaneo, Thackeray non pesasse con maggior cura le parole. L'altro sostenne la posizione opposta. Disse che Thackeray descriveva l'uomo così com'era e, grazie a una grande capacità di empatia, si identificava con alcuni dei suoi personaggi, provava le loro stesse tentazioni, penetrava nei loro piaceri e via dicendo. Quelle parole fecero insorgere Miss Bronte. Si gettò con ardore nella discussione. Il ghiaccio del suo riserbo si era spezzato e da quel momento dimostrò interesse in quanto veniva detto, contribuendo vivacemente alla conversazione durante tutto il corso della serata. Quello che disse e quale parte prese nella discussione su Thackeray si può capire dalla seguente lettera che tratta lo stesso argomento. Le conferenze di Thackeray, scrisse, mi sono giunte sane e salve, le ho lette da cima a fondo due volte, per essere giudicate devono essere studiate. Ne pensai assai bene quando le ascoltai, ma solamente ora ne vedo la vera forza ed è grande. La conferenza su Swift la trovo quasi inarrivabile, non che mi trovi sempre d'accordo con le opinioni di Mr. Thackeray, ma la sua forza, la sua penetrazione, la sua significativa semplicità, la sua eloquenza, la sua virile e sonora eloquenza impongono una indiscussa ammirazione. Protesto però contro i suoi errori, fosse anche un tradimento il farlo. Fui presente alla conferenza su Fielding. L'ora passata nell'ascoltarlo fu un'ora penosa. La coscienza mi diceva che Thackeray errava nel presentare il carattere e le manchevolezze di Fielding. Dopo aver letto il testo di questa conferenza mi sono del tutto convinta che ha torto. Se Thackeray avesse un figlio nel pieno della giovinezza o adolescente, brillante ma scapestrato, avrebbe parlato con tanta leggerezza di un destino che portava al disonore e alla morte. Ne parla in astratto, come se in vita sua non avesse mai dovuto toccare con mano le conseguenze di certe scelte, come se non gli fosse mai toccato di vederne l'esito finale. Credo che se anche una sola volta lui avesse visto da vicino una vita promettente, devastata fin dall'inizio da una condotta sregolata, non avrebbe mai parlato con tanta leggerezza di quanto l'aveva avviata alla pietosa distruzione. Se mio fratello fosse ancora in vita, tremerei vedendolo leggere il testo della conferenza di Thackeray su Fielding. Potendo, la nasconderei ai suoi occhi. Se a dispetto di ogni precauzione gli fosse capitata tra le mani, lo supplicherei di non lasciarsi fuorviare dall'abile voce dell'incantatore. Non intendo dire che avrei voluto che, anche per un solo istante, Thackeray si scagliasse contro Fielding e nemmeno che farisaicamente ne condannasse la vita, ma lamento dal profondo che non abbia mai sentito da vicino il pericolo di una simile carriera, che non gli sia venuto in mente di adoperare un po' della sua forza per mettere in guardia i giovani che si avviano per quella strada. Penso che la tentazione spesso assale le più belle menti umane, come il passerotto col becco e la vespa col pungiglione intaccano i frutti più dolci e succosi, lasciando da parte quelli agri e duri. Colui che veramente ama la razza a cui appartiene dovrebbe dedicare il proprio vigore a difenderla e a proteggerla. Dovrebbe spazzar via qualsiasi lusinga mostrando l'inganno che vi si annida. Lei penserà che questo sfogo è di gran lunga troppo serio, ma l'argomento è serio e non si può fare a meno di affrontarlo con impegno.